Allora, siamo qua con Ipolemica perché, vabbè, a Firenze innanzitutto dire siamo con Ipolemica è problematico perché è un modo di dire, c'è polemica e si instaurano sempre delle grasse risate su questa cosa. Infatti abbiamo scritto nel volantino di presentazione del concerto di stasera che c'era scritto cena più polemica, a seguire polemica ha scatenato ilarità perché sembrava che poi c'era gente che aveva da ridire sulla scena, su Beh, come. sicuramente interessante, quindi. Sì, in realtà sì. E quindi insomma siamo qui con Ipolemica e la registrazione di stasera è perché è appena finito il concerto e non ci potevamo far sfuggire questa occasione qui a Radio Wombat per intervistarli e chiedergli un po' di cosette, visto che hanno fatto 7 ore di viaggio che dovevano essere 5 ma sono diventate 7 per arrivare fino a qua e insomma non è che tutti i giorni possono fare questa sfacchinata. Certo, se lo volete fare non è un problema, noi Sì, vi infatti stavamo pensando di farlo giorni pari, 7 ore di viaggio, giorni dispari anche 10. Mi sembra un'ottima idea. Sicuramente divertente. Mi sembra ottimo. Quindi sì, quando volete tornare a farvi questa allegra scampagnata di 7 ore non è un problema. E quindi insomma sì, siccome penso che non lo farete spessissimo, cogliamo questa occasione e quindi anche se siamo tutti stanchi, tramortiti dalla serata e dal viaggio, però sì, niente, vi volevo chiedere giusto due cosette perché siete una buffa accozzaglia di personaggi. Che vabbè, è la seconda volta che venite qui a Firenze, fra l'altro sempre al compleanno dell'Emerson, cioè non, in realtà questa cosa non è stata fatta apposta, però. Sì, perché in realtà noi portiamo la torta, quindi siamo sempre invitati. Certo. La terza? So, io mi Sì, è sbaglio. la terza, la prima volta non era il compleanno di Hai Alex. ragione. Allora vabbè, strano, doveva essere il compleanno, il non compleanno dell'Emerson. Non ancora avevamo la torta, in realtà, per questo. Poi vi siete attrezzati perché sennò non vi chiamavamo più. Va bene. Quindi insomma sì, siete ormai degli habitué, però non vi avevamo mai intervistato anche perché prima la radio non c'era, cioè l'anno scorso c'era, ma eravamo ancora tutti un po' incasinati con le cose per aria. E quindi niente. La prima cosa che mi viene da chiedervi innanzitutto è come vi siete conosciuti, perché ovviamente chi vi ha sentito e chi sa vagamente chi siete sa che innanzitutto la cantante non è propriamente abruzzese, cioè non lo so, l'accento non è propriamente abruzzese e quindi sorge la domanda spontanea di come vi siete conosciuti, cosa vi ha. Che è successo? Perché siete arrivati a suonare insieme? Ma dai, Silvio, tu Date ci hai messo le versioni insieme. diverse, cioè vogliamo le Ma versioni io posso dire diverse. che sono arrivato in Italia 5 anni fa, senza di conoscere nessuno. Sì, in realtà è stato davvero singolare perché vedevo gironzolare la cantante in questo paesino che in realtà è il paesino dove viviamo io e Vic e vediamo gironzolare questo personaggio e l'abbiamo conosciuto attraverso i suoi dischi e da lì abbiamo cominciato a chiacchierare e ci siamo conosciuti così attraverso la musica in realtà. Ok, quindi non è che vi eravate cercati proprio, cioè è stato un po' casuale, però poi vi siete trovati. Sì, in internet cerchiamo una cantante straniera che ha fatto una vita completamente diversa per tanti anni, ma sta per una ragione che non capiamo. In Abruzzo, dov'è? C'è qualcuno? Era così. Beh, non proprio così. No, che se proprio vogliamo dire la verità, poi ci siamo conosciuti la proposta di suonare con noi, perché io, Giulio e Silvio avevamo già fatto una o due prove e ci mancava il cantante, no? Quindi abbiamo pensato ad Ilari e l'abbiamo conosciuta a delle jam di musica improvvisata che lei organizzava. Alla prima. Quindi la prima. Insomma, a fine jam siamo trovati bene con lei, abbiamo chiesto: Ilari, ma devo cantare con il nostro gruppo? E lei disse: affanculo, sono una batterista. E che batterista poi, tra l'altro. E poi è venuta, ha accettato. Si è convinta. Si è convinta. Ma questo non sono sicuro ancora. Si è convinta, si è convinta. Beh, ancora proviamo. Oh. Ma la verità è non ero convinta subito, ma dopo di sentire quelle che hanno già fatto, sì, almeno mi ha convinto di provare. E allora il secondo anno sembra ok. Quindi continuiamo. Sono in prova, ragazzi, ancora. Va bene. Eh sì, la realtà ormai è così, una continua prova. Mamma mia, che stress. Angoscia, non so come fate. Vabbè, va bene. No, comunque la prova del pubblico è andata bene oggi, non so, sì. Come i quiz, il pubblico era contento. Ho capito. Vabbè, sul perché sei in Abruzzo non te lo voglio chiedere, perché è una cosa troppo strana. E vabbè, problemi tuoi, cioè cose strane tue. No, forse bisognerebbe fare una puntata a parte. E infatti, no, ma infatti, cioè, sorvolia, ognuno ha i suoi, le sue peculiarità, insomma, e vabbè. Non vogliamo sapere. No, però, allora, ormai state suonando da un po' di tempo, effettivamente. Da quanto? Da 3 anni sicuro, perché è la terza volta che venite. Quindi, da un po' di più, forse? No. No? Sarà... Beh sì, comunque 3 anni, perché se questa è la terza volta che veniamo qui, siamo venuti qui dopo pochissime prove. Quindi facciamo 3 anni a gennaio. Questo è il romanticismo, ragazzi. Allora dovete tornare qui a festeggiare il compleanno vostro. Questa è una magnifica idea. La torta la portate voi, però. Sì, a sto giro sì. Sì, prometto. Va bene. E quindi sì, in realtà, quindi 3 annetti. Io vi ho personalmente sentito cambiare un bel po', nel senso che all'inizio, quando eravate venuti la prima volta, non lo so, c'era un qualcosa che è rimasto esattamente intatto da allora, secondo me, forse lo spirito, quel certo non so che. Però siete cambiati tantissimo, cioè, l'ultimo disco che avete fatto prima di sentirlo dal vivo, cioè, boh, mi ha lasciato essere fatta, nel senso che eravate di una precisione incredibile che prima non vedevo, nonostante avevate le idee, cioè si sentiva che volevate arrivare lì. E adesso in qualche maniera, boh, non so, poi magari arriverete da altre parti, cambierete completamente altre 5, 6, 7 volte. Però, insomma, la differenza l'ho notata ed è stato molto bello vedervi in questi cambiamenti, in questi passaggi, in questi 3 anni. E in un certo senso è anche divertente, appunto, poi è una cosa che chi organizza concerti è una delle massime soddisfazioni, vedere crescere i gruppi intorno a sé, è bello, insomma. E non so voi, appunto, che idea avete di voi stessi, nel senso, se le cose che state facendo ne ragionate, se vi vengono così alla giornata, se ragionate su quello che fate, su il tipo di suono che volete raggiungere, queste cose un po' da DJ, non lo so. No, però nel senso, se immagino che all'inizio magari avrete un po' ragionato, ok, non vi conoscevate, che cosa vogliamo fare, eccetera, però poi appunto le cose evolvono, si sono evolute per caso o perché ce l'avete volute mandare in quella direzione? In realtà le due produzioni che abbiamo fatto sono state delle avventure immense, perché il primo disco è stato fatto realmente proprio, ci siamo fatti trasportare dall'energia che nasceva negli incontri che facevamo, nelle sperimentazioni e nella musica che nasceva in maniera davvero spontanea, quasi in maniera incredibile. E abbiamo deciso di registrare proprio subitissimo quello che stavamo creando anche nello stesso momento. Infatti il secondo disco poi è stato un po' più ragionato, abbiamo cercato di lasciare sempre la spontaneità e penso che questo sia un po' quello che uno dei nostri fattori di riconoscimento. Quindi la spontaneità e la libertà di espressione è anche un impatto piuttosto naturale della nostra musica. Spero che comunque nel secondo disco questa cosa venga fuori, nonostante sì, chiaramente è stato un disco più pensato e più rodato. E quindi il terzo disco sarà sicuramente diverso, anche perché stiamo già iniziando a pensare, a ragionare un po' come farlo, e man mano penso che... Chissà come sarà. Questo no. Penso, comunque è la mia opinione, poi penso... No, è giusto ciò che dici, Silvio. Cosa che cambia è anche il metodo in cui... abbiamo costruito i pezzi, no? Perché mentre nel primo album siamo partiti più o meno da brandelli di canzone che già qualcuno aveva, o riff che già abbiamo fatto a casa, poi andavamo in sala prova, improvvisavamo su quelli e costruivamo il pezzo. Nel secondo disco siamo partiti completamente da zero in sala prova a improvvisare, sì, senza schemi logici o imporci qualcosa prima di prendere in mano lo strumento, no? E poi riascoltando le registrazioni delle jam, ah cavolo, questo è figo, da là siamo partiti a costruirci sopra, e diciamo che l'abbiamo anche curato abbastanza, più del primo. Abbiamo cercato di definire più cosine, più dettagli, un po' più ricamato. Non so, l'impressione che ho io, al di là del dettaglio, no, è, cioè ve lo dico così, poi non sono bravo a fare domande, cioè più vi dico quel che penso e poi mi dite voi quel che pensate. Però quello che mi ha fatto effetto, soprattutto in questo concerto di stasera, e forse la prima volta che ci pensavo nel vedervi, anche se poi in realtà probabilmente lo pensavo da un po', è che avete questa peculiarità di dire... vabbè, al di là dei testi, ma in generale la vostra musica esprime qualcosa di estremamente pesante, cupo generalmente, o comunque serio, ma con una leggerezza e con anche una miriade di sorrisi che è secondo me raro da vedere, nel senso la capacità di dire delle cose molto pesanti o molto, degli argomenti molto pesanti o delle parole che ti rimangono, ma facendolo con un'allegria che ti rimane addosso, cioè che quindi non è un piangersi addosso o un soltanto dipingere una distopia, un mondo bruttissimo, che vabbè, ma anche porta con sé una volontà in tutti i modi di andare avanti, di provarci lo stesso, cosa che secondo me, al di là della musica, di quello che esprime, però la dimostrate anche nel fatto che, da come siete, dai posti dove andate a suonare, e dall'attitudine, come si dice così, dalla volontà di costruire scene un po' ovunque, dunque siete, in qualsiasi situazione vi trovate. E questa è una cosa importantissima, perché di gruppi che affrontano argomenti seri ce n'è mille, e spesso si piangono molto addosso, spesso poi vai via dicendo oh mio Dio, il mondo fa tutto schifo, comunque lo sapevo già e non importava che me lo ribadissi. Ecco, invece voi avete, almeno a quello che mi avete buttato addosso, un sì, ok, il mondo fa schifo, però vaffanculo, cioè voglio... Andiamo avanti. Ecco. E questa cosa, cioè veramente, secondo me è rarissima, e quando io la trovo mi lascia a bocca aperta, che poi è quello che ci viviamo nei posti autogestiti, negli spazi liberati, eccetera, perché siamo tutti consapevoli di vivere in un momento storico, in un mondo bruttissimo, ma andiamo avanti e lo facciamo anche stando bene, essendo anche felici di quello che facciamo. Beh, indubbiamente, in realtà si parla infatti proprio di consapevolezza della realtà. La cosa veramente bella e magica che si è creato in questo gruppo è la coesione proprio delle personalità. Infatti dicevi in maniera giustissima, la consapevolezza delle problematiche che esistono, nel cercare di trovare un linguaggio per sensibilizzare gli eventuali ascoltatori, ma lasciando sempre un senso di positività, cercando anche di trasmettere forza per reagire. Questo nasce più o meno dal nostro insieme, chiaramente anche grazie ad Hilary, con le sue parole, che comunque ti fanno riflettere tanto. Noi cerchiamo sempre di enfatizzare, di creare una cornice ad un significato, ad un contesto, ad una problematica o a qualsiasi cosa, che comunque ti riesce a farti riflettere, ma cercando di creare un qualcosa di energico che ti permetta di reagire e di andare avanti e eventualmente trovare una soluzione o un qualcosa, un'alternativa. Questo più o meno è quello che cerchiamo di fare, a prescindere dai dettagli, come dicevamo prima, di trovare una sonorità o più che altro. Penso che e spero che la cosa che esca maggiormente sia proprio questo, comunque la persona, il contatto che si viene a creare tra di noi e con le persone con cui incontriamo durante i concerti. Infatti prima parlavo con un ragazzo e dicevo, infatti, è la terza volta che veniamo qua ed è sempre bellissimo venire qui a suonare qui, poiché c'è un rapporto umano molto naturale. È come se ci esprimiamo e facciamo la nostra voce, come se stessimo in sala prove a casa nostra. Ed questo è molto raro. Quindi forse riusciamo anche ad esprimerci in maniera molto più naturale e anche più sensibile, forse proprio alle personalità, alla personalità, al contatto umano, che penso che sia la base per creare qualcosa di positivo. Noi che vi ascoltiamo ci arriva. Per me? Vai, ti si sente. Okay. Per me infatti è una cosa un po' più base, che senza la musica uccidere qualcuno o tante persone. Quindi sono contenta di suonare, perché lo so che mi... Ti tiene fuori dal carcere. Se mi salva in qualche modo... seria ma anche leggera, perché sai, e queste divisioni sono molto vicino uno all'altro, e anche alcuni momenti i sorrisi anche sono un po' ironici, quindi l'umore è dappertutto, è dentro e fuori, è sopra e sotto, ma io sto con questo. Senza la musica non c'è la vita. Beh sì, direi, sono d'accordissimo. Ma e invece ho visto che avete fatto un tour abbastanza lunghetto, siete andati un po' in giro, che avete girato, dove siete stati? Dici tu? Sì, No, non siete andati da nessuna parte. A 10 concerti, sì. Ah, vabbè. Fatto, sì. E che luoghi avete visto? Cioè, che situazioni avete toccato? Che mondo c'è? Cioè, cosa si riesce? Perché alla fine, quando uno gira, al di là del momento, va bene, salgo sul palco, suono, il rapporto col pubblico, però, ovviamente, lo dicevamo prima, conosci un sacco di persone, vedi, è vero che magari non ci stai mesi, però insomma anche soltanto quel tempo piccolo in cui ci stai ti serve come una finestra per capire cosa succede in quel mondo. Che mondi avete trovato? E queste domande lascio agli italiani, perché ho fatto questo tipo di tour per 20 anni, quindi non c'è una finestra più una porta per me, ma dai, In realtà è sempre interessante, comunque, come dicevi prima, avere una, entrare da una piccola porta in un breve tempo. E trovi tante analogie, che comunque tante realtà che sono identiche a delle realtà medio piccole o italiane. Trovi delle realtà a volte anche totalmente diverse. La cosa interessante è che comunque trovi come fulcro fondamentale per andare avanti, che comunque danno gioia e così, e c'è sempre la musica che comunque fa scaturire tanto, e quindi cose. Sì, cose, infatti. E comunque sì, le realtà sono sempre piuttosto simili. Cioè, quindi, nonostante immagino ci siano grandissime differenze nei posti dove magari uno va, però c'è una costante che trovate. Sì, ci sono delle similitudini e dei compromessi identici a, a quelli con cui ci confrontiamo ogni giorno, anche qui. Perlomeno questa è la mia opinione. Eh no, certo. Ma devo dire che è vero che, per esempio, secondo me, nel mondo quasi dappertutto il locale della musica rock sono simili. Ma per esempio, il posto o la posizione, per esempio, abbiamo suonato l'ultimo concerto a Sarajevo. E questo locale sta nel stesso posto per la prima della guerra, e sta davanti al parco, che prima della guerra era un parco al centro di Sarajevo, e adesso è il cementerio, ma completamente pieno. Allora, penso io, la prospettiva di prendere una birra, sentire la musica di rock tra gli anni a questo stesso posto, ma madonna. Quindi si cambia, ma è lo stesso, ma non è. Non è proprio lo stesso. Ma torno a, senza la musica, non c'è la vita. Ecco. Ah, sì. Sì, chiaramente poi le cornici che enfatizzano il contesto sociale, quindi le storie di vita, la storia di un paese, chiaramente enfatizzano i racconti e gli incontri che si fanno. La cosa interessante è che è vero, i locali sono un po' simili, un po' perlomeno nei posti che abbiamo frequentato e vissuto. Tutti abbastanza, l'ambiente comunque molto simile, comunque un ambiente sempre piuttosto libertino e quindi propenso ad esprimere i propri idee sotto qualsiasi forma, quindi degli spazi liberi dove potersi esprimere, e penso che comunque ce n'è bisogno e quindi ce ne vogliono sempre di più, sempre di più. Va bene, allora niente, io vi lascio a riposarvi, perché se no basta, vi ho trattenuto anche troppo e siete già fin troppo stanchi. E vi ringrazio moltissimo, e tanto ci rivediamo qua tra poco, perché dovete... A voi! Poi dovete venire per il vostro compleanno, certo. Per il nostro, poi il non compleanno, cioè l'onomastico. Natale, Pasqua... Beh, ci organizziamo anche per l'onomastico. L'onomastico, sì. Cioè, c'è un sacco di motivi perché stare dove state, cioè, tornate. Va bene, grazie mille e alla prossima. Grazie a voi. Grazie. Wombat, Radio Wombat!